ce lo auguriamo. Allora, ringraziamo le nostre insegnanti e vi auguriamo buona giornata. Vi invitiamo a seguire gli altri appuntamenti del festival, ma proviamo a riuscire qui a rivedere le stelle, anzi il sole. Siamo proprio nelle prossimità della dirigente scolastica. Buongiorno. E noi siamo Radio Live, Giovanni e Silvio. Buongiorno, la radio del festival, molto piacere. Allora, com'è andata questa esperienza? Vabbè che già l'ho detto pubblicamente, però se lo vuole dire anche per i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Senz'altro, è stata un'ottima iniziativa che mi inorgoglisce aver dato il mio assenso veramente in questo periodo di emergenza pandemica. I ragazzi sono stati, i bambini sono stati davvero meravigliosi e bravissimi, grazie agli artisti, alla responsabile della scuola primaria di Campomaggiore e a tutti i docenti che hanno collaborato. Lei anche è originaria di Campomaggiore? No, io sono di Muro Lucano, però vivo a Tito da poco tempo ed ho 8 paesi, sono la dirigente scolastica di 8 paesi, tra cui Campomaggiore e Pietra Pertosa, dove so che il festival proprio oggi continuerà lì. Qui si tratta di tutte comunità piccole, diciamo, tipo questa, con un numero di abitanti più grandi, 3.000, 4.000 abitanti, alcuni paesi, però sono tutti paesi dell'entroterra lucano, che fanno parte di due territori diversi. Allora, rivolgiamo a lei una domanda che ci è capitato un po' di sentir serpeggiare, insomma, in questi giorni di festival, no? Molte persone con cui abbiamo parlato parlano di una fase comunque un po' critica della vita di queste comunità a causa della tendenza di spopolamento che riguarda soprattutto i giovani, eccetera. Lei, nel suo ruolo di dirigente scolastico e della sua esperienza di conoscenza più vasta del territorio, ma anche a titolo personale, al di fuori del ruolo, cosa crede che sia auspicabile per queste comunità, per il loro futuro? Beh, credo che nell'epoca in cui viviamo, si diceva prima, si parlava di condivisione e collaborazione, già che sono tutte piccole realtà, è indispensabile proprio collaborare, cioè fare coesione tra tutte queste realtà. Quindi se da una parte abbiamo i paesi della Camastra come Laurenzana, Anzi e Calvello, e dall'altra parte abbiamo i paesi della Basentana, diciamo, e quindi parlo di Brindisi, Campomaggiore, Pietra Pertosa, Castelmezzano, Albano di Lucania, allora aggreghiamoci, condividiamo, collaboriamo per poter poi fare delle iniziative che coinvolgano tutte queste piccole realtà. Nessuno si salva da solo, insomma, mettere in comune le risorse, collegare, collaborare. E questo, insomma, soprattutto per una terra come quella della Basilicata, in cui appunto raggiungere un posto un altro ci vuole più tempo, e sembra appunto che tutti siano isolati, ma invece con una giusta rete sociale, rete culturale, si può implementare il dialogo e quindi l'ascolto e sentirsi, ecco, più vicini. Io direi che a questo punto della storia della Basilicata sarebbe un auspicio quello di raggiungere queste piccole comunità facendo aggregazione. Forse è l'unica strada per non perdere poi dal punto di non perdere neanche l'identità storica e culturale di qualcuna di queste comunità. E su queste riflessioni io direi che salutiamo e ringraziamo la dirigente scolastica e vi invitiamo tutte quante a partecipare ai prossimi appuntamenti del festival. Visto che c'era saltata la linea, abbiamo ancora qualche scampolo di trasmissione per ma questo bambino io l'ho visto recitare. Uno dei, insomma, alcuni dei protagonisti del cast sono qui con noi in questo momento. Ciao. Tra cui siamo in compagnia di Aria. Ti è piaciuta questa esperienza? Solo se ti va, Aria, non ti preoccupare. Esatto, se non ti va di parlare con noi, non ci arrabbiamo minimamente. No. Stai tranquillo, che non lo devi fare per forza. Ma se ti va di dircelo, io sono Silvio. Com'è andata per te? Com'è stato fare questa cosa? Vabbè, non ti preoccupare. Sei stato bravissimo. Noi ci sei piaciuto moltissimo e sei stato bravissimo, quindi complimenti. Ma abbiamo qui con noi un altro membro un po' più cresciuto del cast dello spettacolo, che abbiamo conosciuto l'altro giorno nella gentilissima generosissima, volevo dire, cena a base di vino e porchetta che ci è stata offerta dall'amministrazione comunale. Allora, come va? Com'è andata? È andata bene, è andata bene. È stata un'esperienza molto positiva, che sicuramente mi ha arricchito e mi ha fatto aprire anche un po' di più la mente. E quindi, soprattutto sopra le storie che ci sono sul nostro nel nostro paese, quindi è stato più che soddisfacente come esperienza. Niente. Pensi che seguirai i prossimi appuntamenti del festival? Continuerai a seguirci? Sì, credo proprio di sì. Già domani sarò presente. Ma da oggi invece, che tra poco abbiamo ad Accettura una performance e poi a Pietra Pertosa? Non so se sono libero questo pomeriggio, però... Ma noi speriamo di vederti, sì, e conserviamo la speranza, e come di rivedere te, invitiamo tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici a rimanere sintonizzati su queste frequenze. Dove? Per su radiolive.com. Certo, su radiolive.com, certo. Stavo per dirlo, Giovanni, ma come sei pignolo veramente certe volte, ma ti voglio bene lo stesso. E su queste frequenze digitali, su radiolive.com, e anche chiaramente per chi ha la possibilità di venirci, di venire a vedere dal vivo in presenza gli appuntamenti. Per il momento da Jetlag è tutto. Radiolive, sì, vi aspetta con il prossimo appuntamento per Diorama, se non sbaglio. No. Qua ci sono degli avvistamenti. Ah, ma certo, ci sono prima degli avvistamenti, degli antipodi e dei visitors. Poi arriviamo al diorama. Un palinsesto ricchissimo, quasi da perdere oggi la testa. Pieno pieno. A tra poco. E chi se lo perde?